The topic of our Dhamma talk today is mindfulness in daily life. Some of you will know parts of this talk already, and to some it will be new. L'argomento del discorso di oggi è la pratica, la consapevolezza nella vita quotidiana. Alcuni di voi conosceranno già parte di questo discorso, per altri invece sarà nuovo. Now, for those certain of you who are quite new to the mindfulness practice, it certainly will be quite useful to receive some guidance on how to take the mindfulness practice into your daily lives. Per chi è nuovo, la pratica della consapevolezza può essere utile avere delle indicazioni su come integrare la pratica della consapevolezza nella propria vita quotidiana. Now, the benefits of the practice were described already to some extent yesterday. So the benefits of gaining the first insight knowledge, second insight knowledge, and certain other things have been explained during earlier Dhamma talks. I benefici di intraprendere la pratica della consapevolezza sono stati illustrati ieri sera, quindi i benefici di conquistare, di ottenere la prima conoscenza di insight, la seconda conoscenza di insight, e altri benefici e frutti sono stati spiegati nei discorsi precedenti. And by now, you're probably quite convinced that it's worth it to abandon unwholesomeness, akusala, and suddenly you will hopefully also be ready to develop as much wholesomeness, kusala, as possible. E ora sarete anche convinti del fatto che è importante dei benefici di abbandonare il non salutare e sarete anche pronti a sviluppare il più possibile la salutarità. So with this retreat you will have gained a first taste of what this practice is all about. You might have also glimpsed the potential of mental development, bhavana, and with this the question then arises, what next? E quindi con questo ritiro avete sicuramente avuto un assaggio di quello che è la pratica, di quello che sono i frutti di questa pratica, e potete anche aver avuto una visione di quello a cui può condurre questa pratica. E quindi sorge la domanda. E quindi che cosa viene dopo? And how to proceed with the meditation in the future? E come procedere, come proseguire con la pratica in futuro? The most basic aspect is take your practice with you and keep developing it. L'aspetto principale è quello di portare con sé la pratica e continuare a svilupparla. No, just like during a retreat, to be well established on virtue, on sila, is important. So too, during our daily lives, we want to be well established in virtue, in ethical conduct. In other words, we want to observe at least the five precepts. Così come durante un ritiro è importante essere stabili e consolidati nella virtù, in sila, così è importante anche nella vita quotidiana essere ben stabili e ben consolidati nella condotta morale. E in altre parole, questo significa seguire almeno i cinque precetti. The five precepts may serve you as a guideline as to what to do and what not to do. If on occasion tricky situations come up, situations that involve possible unethical conduct, possible wholesome conduct, then refer back to the precepts. I precetti servono come guida per farci capire che cosa fare e che cosa non fare. E se ci sono delle situazioni critiche in cui c'è la possibilità di compiere qualcosa di non salutare, non corretto, allora in quel caso si faccia riferimento ai precetti per comprendere come agire. And certainly, as outlined certainly during an earlier demo talk, try to place yourselves, put yourselves in the shoes of another person and reflect, how would you feel like if someone comes and maltreats you, if someone comes and takes your property, etc. E così come si è detto nei discorsi precedenti, mettetevi nei panni dell'altra persona e chiedetevi come mi sentirei se qualcuno venisse e mi maltrattasse o mi derubasse e così via. And so if you wouldn't want certain to be maltreated, if you wouldn't want your property to be taken, well, others will also not like it. And certain, so the answer is clear, not to proceed with such a plan. Così come a voi non piacerebbe essere maltrattato o derubato, così anche agli altri non piacerebbe. E quindi questo ci dà una risposta. Now, apart from Sila, being grounded in Sila, it is recommendable to establish a regular practice, if possible, ideally daily meditation practice. E oltre ad essere radicati in Sila, è opportuno, è importante ed opportuno avere una pratica costante e idealmente una pratica quotidiana. And so, mindfulness in daily life then may mean at least two things: that one establishes a regular formal practice with at least formal sitting meditation, and apart from this also tries to integrate the mindfulness into one's daily life as much as possible, and that will take a lot of creativity from your side. E praticare nella vita quotidiana significa almeno due cose. La prima è di avere una pratica formale, regolare, e la seconda è di integrare la pratica nelle attività quotidiane il più possibile. E questo richiede da parte vostra il più possibile creatività. Now, with your formal practice, set aside some time for your formal meditation. Could be in the morning hours or in the afternoon or evening, whenever you have some that time for, let's say, half an hour, 1 hour of formal mindfulness practice. Per quanto riguarda la pratica formale, dedicate ogni giorno un certo periodo di tempo alla pratica. Potrebbe essere il mattino presto, oppure la sera, o anche nel corso della giornata, in qualunque momento abbiate del tempo da dedicarci. And if you can spare, let's say, at least 1 hour, possibly even 2 hours a day, then you could consider spending about half of that on loving kindness meditation, so cultivating loving kindness metta, and certainly then using the other half for the mindfulness meditation. E se riuscite a ricavare un'ora o anche 2 ore per la pratica formale, potete considerare di utilizzare metà di questo tempo alla pratica della gentilezza amorevole, quindi irradiare metta gentilezza amorevole a se stessi e agli altri, e l'altra metà del tempo alla pratica di Vipassana. And so regular metta practice, especially in the morning, helps to ensure that sudden a state of loving kindness will be present in your own mind, and by radiating loving kindness also to the others around you, that sadhana, this will then smoothen social interactions during the day. Una pratica di metta quotidiana garantisce sia che nella propria mente sia presente un'attitudine di gentilezza amorevole, quindi potete iniziare la giornata così con della gentilezza amorevole nella vostra mente, e inoltre irradiando metta verso le persone attorno a voi, questo fa sì che addolcirà le relazioni sociali. No, during the other session you could focus on mindfulness meditation, and what you've learned during this very retreat, you just keep practicing at home. So you keep using the rising and falling movement of the abdomen as a primary object, and then you take it from there. You just observe whatever most predominant object comes up in the body or in the mind. E per quanto riguarda l'altra metà del tempo dedicato alla pratica formale, praticherete la meditazione di consapevolezza, così come l'avete imparata qui, quindi applicherete le stesse indicazioni che avete acquisito qui, iniziando con l'osservazione del salire e scendere dell'addome, e poi applicando la consapevolezza a qualunque altro oggetto predominante sorga nel corpo o nella mente. And so, when you sit down, trying to reflect, trying to realize that the hour that you have ahead of you is going to be very precious time. So you don't want to waste it with a nodding head. E quando vi sedete per l'inizio di questa sessione, considerate che l'ora che avete di fronte a voi è un'ora molto preziosa, e quindi certamente non la vorrete sprecare cadendo dal sonno. Also, what you could certainly consider doing is, after your formal mindfulness meditation session, that you briefly write down your experiences. In this way, you will force yourself to observe properly during the sitting session. E inoltre, alla fine della sessione, potete brevemente prendere nota di ciò che è accaduto durante la sessione, e in questa maniera. In this way, you can assure that the quality of your sitting is good. E fare questo vi stimolerà, vi spingerà ad avere una qualità di pratica migliore. Now, on occasion, retreat or meditators are there, they sit down on the cushion only on a sunny day when they feel joyous, happy, etc. But regular mindfulness practice is not that. You also sit on those days when you feel miserable, when you're tired, when you are, let's say, angry with somebody, when the mind is agitated, etc. And on those days, you will have a wonderful opportunity to study the nature of unwholesome mental states. And that is going to be important for life. Alcune persone tendono a sedersi solo quando è una bella giornata di sole, sono felici, si sentono bene. Ma questo non è ciò che si intende per pratica regolare. Pratica regolare significa che ci si siede sempre, anche quando la mente è disturbata, è agitata, è arrabbiata. o ci si sente infelici, e quando ci si siede in queste occasioni si avrà la meravigliosa opportunità per conoscere la natura degli stati mentali non salutari, e questo sarà molto importante e molto utile per le vostre vite. And so it might very well happen, you know, that at the beginning of your sitting session, well, you know, restlessness is there, aversion is there, etc. And so you're suffering. And so, you know, then as you're mindful of those states, in the course of the sitting session, those states subside. And so you end up with a mind that is relatively purified, and so, you know, some happiness might be there, some joy might be there, your energy is coming back, etc. E può facilmente capitare che all'inizio di una sessione ci sia magari dell'irrequietezza o ci sia dell'avversione, ma nel corso di quell'ora di pratica questi stati non salutari o queste tensioni nel corpo verranno meno e si svilupperà calma e si svilupperanno stati mentali salutari, quindi concluderete la sessione con una mente molto in uno stato molto migliore. And as I mentioned already last night, in response to Petra's Sutton question, apart from your daily practice, you could also consider, you know, on occasion to do a weekend Sutton retreat at home, so a self retreat, or on occasion, if Sutton short retreat is being organized Sutton somewhere in your vicinity, well, then go and attend that. E come già detto ieri sera, oltre a una pratica quotidiana, potete anche considerare di fare dei ritiri personali, individuali, a casa, magari nel weekend, o se ci sono delle giornate di pratica organizzate vicino a voi, allora cogliete queste opportunità. Now, on occasion, retreatants are asking, well, I've made such and such, or I've had certain some progress in my meditation practice. What should I do? How many hours should I do? How many hours of daily practice should I do at home to maintain this level of insight, of wisdom? A volte i meditanti chiedono: durante il ritiro ho sviluppato questo certo livello di progresso nella pratica, quante ore di pratica dovrei mantenere al giorno per mantenere questo livello di saggezza? So the answer to this is, well, practice as much time as you can give to your mindfulness meditation. So 2 hours is wonderful, 3 hours is even better, 4 hours will be perfect. La risposta a questa domanda è: cerca di destinare, di dedicare alla pratica della consapevolezza tutto il tempo che riesci a ricavare, quindi 2 ore... 2 ore è buono, 3 ore è meglio e 4 ore è perfetto. And you might find that your daily meditation practice, mindfulness practice, will help you for the next retreat. With daily practice, you're building a really good foundation. So let's say if you have several months of daily practice, well, there's plenty of experiences that come up during your daily session. And with this, you become more and more experienced, more and more skilled at dealing with various bodily formations, with various mental formations. E vedrete che la vostra pratica quotidiana costante vi aiuterà molto, vi sarà molto utile e vi preparerà al prossimo e successivo ritiro e costituirà quindi una buona base, un buon fondamento per lo sviluppo della pratica. Durante le vostre sessioni quotidiane affronterete molte, ci saranno molte, molti fenomeni, molti diversi fenomeni che sorgono, e quindi questo vi affinerà le vostre capacità di affrontare e di, sì, di affrontare e di gestire dei vari oggetti nel corpo e nella mente. Now, to supplement or to complement your formal daily practice, you could have further considered to integrate your mindfulness meditation into your daily lives, which means try to do certain simple activities like taking a meal or doing the dishes or cleaning up or opening a door and closing a door, putting clothing, etc. Those things could be done with some degree of mindfulness. Inoltre, per sviluppare ulteriormente la pratica, potete considerare di integrare la pratica della consapevolezza nelle vostre attività quotidiane. E questo significa praticare la consapevolezza in alcune attività, come ad esempio il mangiare, o attività semplici come pulire la casa, aprire e chiudere una porta, vestirsi, quindi compiere queste azioni con consapevolezza. Jack Kornfield, a well-known American mindfulness teacher, in one of his books has recommended that for one day one focus on one thing. So for one day one pays particular attention to the activity of opening and closing doors. And the next day it could be something else. Jack Kornfield, un insegnante meditazione di consapevolezza, in un suo libro ha suggerito che ogni giorno ci si focalizzi su una specifica attività e di cambiare questa attività ogni giorno. Ad esempio, un giorno si può prestare particolare attenzione all'aprire e chiudere le porte, e il giorno successivo un'altra attività, e così via. No. Apart from being mindful of somewhat neutral activities like opening or closing of doors, an area that usually gets not much addressed during intensive retreats is verbal communication with others. So, social interactions. And to bring mindfulness to those social interactions, what do I intend? So I see some person coming, then how do I see the person? What do I feel? What do I feel mentally? How does the body react? And then what do I say to the person? Do I really hear what the other person is saying? Etc., etc. And when I talk to another person, do I do this in an aggressive way, or do I do this in a friendly way? What about the tone of my voice? What about the words that are coming out of my mouth? Are those well-selected words, or are those words that are going to hurt the other person's feelings? E oltre ad applicare la consapevolezza ad attività neutre, come può essere aprire e chiudere le porte, applicate la consapevolezza anche ad un'area che durante il ritiro viene poco esplorata, che è quella della parola, delle espressioni verbali, in altri termini delle interazioni sociali. E quindi applicate la consapevolezza appunto a come vi rivolgete agli altri, a come mi sento quando incontro questa persona, come rispondo quando mi viene rivolta la parola, quando parlo, com'è il tono della mia voce, quali reazioni emotive ci sono, la mia parola, che cosa esce dalla mia bocca, sono parole gentili, sono parole utili, opportune, o sono invece parole che possono ferire l'altra persona. So when we engage in a social interaction, then it would be good if this whole thing is certainly somewhat meaningful, and what we say contributes certainly something to the conversation. Quindi quando apprendiamo delle interazioni sociali è buono che ciò che facciamo, ciò che diciamo sia in qualche modo significativo, abbia un significato e un'utilità, quindi che porti un contributo utile alla conversazione, all'interazione. Or along the same line, these days a lot of communication is taking place by way of telephones and cell phones, and so to be mindful of this, first our intention to place a call, what do we want to say to the other person, how do we feel about him or her, and then how are we going to do this, are we going to yell at the other person or are we going to talk peacefully, etc. E poi, siccome oggigiorno molta comunicazione avviene attraverso il telefono, attraverso i cellulari, allora applicare la consapevolezza a questo, quindi essere consapevoli quando si prende il telefono, essere consapevoli dell'intenzione di telefonare a qualcuno, di quello che vogliamo dire, di come ci sentiamo rispetto a questa persona, rispetto a questa comunicazione, e così consapevoli di come ci esprimiamo, le urleremo addosso oppure ci esprimeremo in modo gentile. We might also take a closer look at our modern addictions, such as computers, spending hours in front of them. Possiamo anche dare uno sguardo alle nostre dipendenze moderne, come ad esempio l'uso del computer e passare delle ore davanti allo schermo. Sometimes I'm at the point of throwing my computer away. A volte mi viene voglia di buttare via il mio computer. An aspect of mindfulness in daily life that was highlighted during the closing talk of last year's retreat, very much focused on mindfulness in relation to the natural world. So our environment. How do we deal with our environment? Are we going to further abuse our environment and suddenly create and contribute in this way to an ever increasing global temperature, or do we take a close look at our consumption patterns and suddenly then how we treat animals, how we treat plants, trees, etc. E un altro aspetto che abbiamo toccato anche durante i discorsi di chiusura dei ritiri degli anni precedenti è il rapporto con portare la consapevolezza nel rapporto con il mondo naturale, quindi con l'ambiente che ci circonda. Quindi faremo delle azioni che contribuiscono all'inquinamento o al riscaldamento globale, o invece intraprenderemo delle azioni che vanno a favore dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente che ci circonda. Come saremo saremo rispettosi nella nostra azione verso gli animali, le piante e così via. An important aspect of the first precept of not taking life, this certain precept is not limited only to taking the life of fellow human beings, but it also regulates our relationship to the ants, to the spiders, to the birds, elephants, tigers, snakes, and whatever. E il primo precetto che riguarda il non prendere la vita non si applica solo agli esseri umani, ma anche a tutti gli esseri, quindi anche alle formiche, ai ragni, a elefanti, tigri e ogni altro animale che possiamo incontrare. So at times in Lumbini I have to laugh. At times we have retreatants from highly industrialized countries, and then they get to practice in a Kamatana Kuti, so that's a meditation cottage, single room, so privacy is guaranteed. But they have to share, willingly or unwillingly, the room sometimes with a house lizard. And maybe one, maybe two, maybe three. And some retreatants are so scared of them, you wouldn't believe it. A volte mi viene da ridere a Lumbini. Ci sono dei meditanti che vengono da paesi molto industrializzati e che vengono quando vengono a Lumbini per praticare e stanno in un kuti, una capanna, quindi una casetta, una stanza singola dove hanno la privacy per praticare, ma devono condividere il loro spazio con un geco, con una lucertola o con una, due o tre, e a volte non credereste a quante volte le persone sono spaventate. And sometimes those kind of retreaters, they come running and seek help to catch their house lizards, their geckos. All it takes is just to have some loving kindness towards them and leave them in peace. A volte arrivano correndo perché non sanno come catturare, come liberarsi di questo geco, ma in realtà è sufficiente avere della gentilezza amorevole e lasciarli tranquilli e non succede nulla. So in Lumbini we have plenty of opportunities to carefully investigate our relationship to the natural world. So there's at least two types of monkeys who are coming who are visiting the place on a regular basis, and one kind is the so-called grey langurs. They're very strong monkeys. If one looks them into the face, they become aggressive. So one has to be really careful. E a Lumbini ci sono molte opportunità di osservare, investigare la nostra relazione con il mondo animale. Ad esempio ci sono due tipi di scimmie che vengono a visitare il posto regolarmente, e una di queste è un tipo di scimmia piuttosto aggressivo, quindi bisogna essere cauti, ad esempio evitare di guardarle dritti negli occhi. So over the years we've learned to share space with those monkeys. E quindi nel corso degli anni abbiamo imparato a condividere lo spazio con queste scimmie. Fortunately, just like physical and mental formations, they come and go. E fortunatamente, proprio come le formazioni fisiche e mentali, anche loro vengono e vanno. So anyway, what I'm trying to say is, do in your daily practice, also do investigate your relationship to the natural world. And that's a topic that certainly for the future of this planet is extremely important. If we don't certainly change our ways of relating to the natural world, as the world population will have a huge problem. Quindi quello che sto cercando di dirvi è integrate la consapevolezza anche nella vostra relazione con il mondo naturale. E questo è un aspetto molto, molto importante anche per l'impatto che questo ha sul futuro del nostro pianeta e delle nostre generazioni. So, when returning to your normal life, be sure to schedule a transition period, so you don't want to go straight back to work. Do consider that after at least 10 days of intensive retreat, your mind is in a pretty purified state. However, those whom you're going to meet again out there, your family, your friends, your colleagues, etc., they have not attended a 10-day retreat, and their minds are as rough as before, as ever. E inoltre, quando concludete un ritiro, considerate anche di pianificare un periodo di transizione. Quindi, dopo un ritiro di 10 giorni, magari non rientrate subito, non vi riemergete subito nel lavoro e nelle altre vostre faccende quotidiane. Quindi considerate il fatto che dopo un ritiro la vostra mente si trova in uno stato abbastanza puro. Ma non è così, ma le persone che incontrate non hanno partecipato a un ritiro e quindi la loro mente è impura e aspra come sempre. No. Based on your experiences during this Satna retreat and the daily encouragement, you might feel very inspired to keep up your daily practice, and you might take it very seriously, and you might decide to walk really slowly at home, at your workplace, and so on, with mindfulness labeling each and every moment. Now, this might be a bit risky. Other people might not understand what you're doing, and it might become an annoyance, and so you do, and let me warn you, you will have to adjust to your normal social context. Magari dopo, alla fine di questo ritiro, siete ispirati dalla pratica, prendete tutto questo molto seriamente, quindi potreste pensare di continuare a praticare a praticare così anche a casa, e magari camminare molto lentamente quando siete a casa, quando siete al lavoro, continuando ad etichettare ogni oggetto che sorge. Ma questo può essere magari troppo, perché le persone può essere un po' rischioso, perché le persone attorno a voi potrebbero non capire quello che state facendo e può diventare un disturbo, un problema. Quindi cercate di adattarvi al contesto in cui siete. So, during intensive retreat, you're asked to label each and every object, predominant object. During daily practice, you might not be able to do that. And so as long as you're somewhat aware of what you're doing, of what you're saying, of what you're thinking, your predominant mental states, this is good enough. Durante un ritiro viene richiesto di etichettare ogni oggetto che sorge. Ma questo non è possibile fare questo non viene richiesto di fare questo nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana, se avete un certo livello di consapevolezza di quello che state facendo, delle vostre azioni, di quello che pensate, degli stati mentali predominanti, questo è buono abbastanza. No. One more aspect that is useful considering is satna, that of clear comprehension. So before I engage in some new activity, to briefly check, to briefly ask yourselves whether that activity is going to be supportive to our development of mindfulness or not. So let's say, if you're considering to order, you already have ordered, you already are receiving 4 newspapers every day, and now you're considering to order another one, then you, before doing this, then check, do you really need this? Or is your time, do you prefer to spend your time more on meditation? Un altro aspetto importante da considerare è quello della chiara comprensione, cioè prima di intraprendere un'azione prendetevi del tempo per chiedervi se questa azione è qualcosa che sostiene la vostra pratica oppure no. Ad esempio, se già ricevete quattro quotidiani al giorno, E state considerando di prenderne, di ordinarne un altro, considerate se ne vale veramente la pena o se piuttosto è meglio dedicare il proprio tempo alla pratica. No, let me see what else. One point I've forgotten to mention earlier on, namely that of joining a sitting group if there's one available near where you live. Un'altra cosa che ho tralasciato di dire prima è considerate la possibilità di unirvi ad un gruppo di pratica se ce n'è qualcuno disponibile. Should your practice be really well developed, you have a solid foundation in your practice, you have a solid understanding of it, you could consider starting a sitting group. E se avete una solida base di pratica, una vostra pratica è solida, allora potete anche considerare di iniziare voi, di dare il via voi a un gruppo di pratica. But not to set yourselves up as a great teacher. Ma non ponetevi come un grande insegnante. No. But rather to share whatever one knows with one's fellow retreatants. Ma il senso è quello di condividere con gli altri quello che si conosce e con gli altri praticanti quello che si conosce. No. When it comes to giving advice for the daily life, not only to practice mindfulness, but to consider engaging in whatever wholesome activity possible. So the Buddha speaks of, in simple terms, of dana, sila, bhavana. Dana means generosity, acts of generosity. Sila means taking and carefully observing an ethical code of conduct. And bhavana is your mental development. Apart from that, dhamma service is there. So helping at a meditation center, helping at a monastery, or maybe listening to a Dhamma talk, participating in a Dhamma discussion, reading Dhamma books, etc., etc. E oltre alla pratica formale della meditazione, la pratica della consapevolezza, così come l'abbiamo descritta, ci sono altri modi per praticare e per dedicarsi ad azioni salutari e meritorie durante la propria vita quotidiana. Il Buddha ha parlato di dana, sila e bhavana. Dana è la pratica della generosità, sila appunto è la morale, è la virtù, e bhavana indica la coltivazione della mente, e ci sono tanti altri modi di coltivare la mente, come ad esempio leggere libri di Dhamma e... fare servizio presso un centro di meditazione, ad esempio. Uh-huh. Or listening to Dhamma talk, yeah. Dhamma discussions, study group, participating in a study mm-hmm. group. Ascoltare dei discorsi di Dhamma e partecipare a dei gruppi di studio e così via. No. Also, what might certainly be helpful, and that relates to what was certainly mentioned earlier on, to relate certain to the world around us, especially the environment, with loving kindness, metta, with compassion, karuna, with sympathetic joy, and certainly equanimity, upekkha. Un altro aspetto che in parte è già stato menzionato è quello di relazionarsi al mondo circostante con un'attitudine di metta, gentilezza amorevole, karuna, compassione, mudita, gioia simpatetica e upekkha, equanimità. So those four qualities are being spoken of as the four divine abodes, and they help guide our relationships to all living beings. So this includes human beings, but it also includes many other forms of sentient beings. E questi quattro stati sono definiti le quattro dimore divine e riguardano la nostra relazione con gli altri esseri. Uh-huh. In senso, including human beings, but also other beings. E quindi non solo gli altri esseri umani, ma anche tutti gli altri esseri viventi. Now, some are very much interested in the study of the Dhamma, and I'm noticing that there's an increase in Dhamma study groups. More and more such groups are being set up, and this can also be very useful to come into closer contact with the Buddha's teachings. Ci sono alcune persone che sono particolarmente interessate allo studio del Dhamma e sto notando che c'è un numero sempre maggiore di gruppi di studio e anche questo è utile, quindi partecipare a questi gruppi di studio è una cosa utile per entrare più in contatto e in profondità nell'insegnamento del Buddha. So what you've learned during this intensive Futna retreat here, there are plenty of applications of this in your daily lives. And so make good use of what you've learned here. E c'è una grande quantità di modi in cui applicare nella vostra vita quotidiana ciò che avete imparato qui. E quindi fatene pieno uso. And so bringing mindfulness to social interactions with the natural world will have a protective quality, so it will protect us from the arising of unwholesome mental states. It will also protect us from making some big mistakes. E avere consapevolezza nella propria relazione con il mondo naturale, questo serve come protezione, quindi protegge dal sorgere di stati mentali non salutari e protegge anche dal pericolo di compiere degli errori. So, in conclusion, please certainly keep practicing mindfulness. Quindi, per concludere, continuate, vi invito a continuare a praticare la consapevolezza. No, that's all. No, do you have any questions? Any further questions? Ci sono domande? Yes, Maria Grazia. Allora, durante questo ritiro ho notato un accrescimento della fede, grazie alla sua preziosa guida venerabile, alla vicinanza del Sangha e all'accoglienza del Candicino. Ma ora andiamo a casa, a lei non possiamo più chiedere consigli, il Sangha si separa, monasteri buddisti non ce ne sono nelle vicinanze e non c'è neppure un tempo dove trovare un po' di conforto. Mi sembra di partire per l'esilio. Come si può supplire a questa mancanza? So during this retreat, I noticed an increase in faith, thanks to your guidance and your teachings, to the support of the Sangha, and to the welcome atmosphere of Pian de Ciliegi. But now I'm going home, and there is no, you are not coming with me. So, There are no other yogis around me, and also there is not a meditation center or a temple nearby where I can find some safety, and so how to deal with this situation, how to do. Well, you're from Piacenza, right? Mm-hmm. Oh, so Piacenza is close, pretty close to Pian di Cilenzi. If I'm not... But it's not a monastery, she said. Yeah, then on occasion, over the weekend you come over here, and this is the closest you can get to a monastery nearby, or you go to Kandersteg in Switzerland. There's a Buddhist monastery there. Kandersteg. Sì, dice che in Svizzera c'è un monastero buddista. Sì. It's a new monastery in the Achancha tradition. Ah, della tradizione di Achancha. No, it's well known. No, it's up in the mountains. It's supposed to be very, very beautiful. Un posto molto bello in montagna. Or else, you have to go to Asia and invite some Buddhist nuns or monks to come and set up a monastery in Piacenza. Oppure vai in Asia e invita qualche monaco o monaca a venire qui. Anything else? Another question on the same theme. How important is it that you join a group exactly in Mahasisaya tradition, if you find a group, a genuine insight or mindfulness meditation, more general, maybe not even Buddhist, I'm not sure, is that useful or does it just make you more confused? That's something you will have to decide yourself. If the group is open enough and you open-minded enough and allows you to keep practicing your Mahasi style rising and falling movement of the abdomen, well then go for it. But if the group is enforcing something else that you cannot relate to, maybe then it's time to say goodbye. La domanda è quanto può essere utile partecipare a dei gruppi di meditazione che però non sono nella tradizione Mahasi, ma magari sono dei generi tipo più generale di pratica di consapevolezza e non sono gruppi buddisti. Può essere utile o può essere qualcosa che porta a confusione? Venerabile Sido risponde che questo è qualcosa da scoprire da sé nella situazione, quindi se è un gruppo aperto che ti permette di continuare a praticare continuare la pratica nel tuo modo, allora va bene. Se magari è un gruppo che ti forza in un altro stile, in un'altra situazione che per te non funziona, allora è meglio lasciar perdere. On occasion, retreatants like, for instance, in India, have said, well, we very much want to attend a 10-day retreat, but there's no Mahasi center in India, or hardly any, then what some of those certain people have been doing is, in lack of some Mahasi meditation center near their location, they would simply just go and attend a 10-day Goenka retreat. It's better than nothing. You'll have to adjust to their way of teaching. If you start doing something else, they'll kick you out, so be careful. And then for the longer retreat, those certain yogis would come to Lumbini. Ad esempio dei meditanti indiani non hanno a disposizione dei centri Mahasi nella loro zona in India o dove vivono, e quindi quello che hanno deciso, in mancanza di centri Mahasi, hanno deciso di andare a fare dei ritiri di 10 giorni nei centri di Goenka, che è meglio di niente, però quindi ci si deve adattare al loro stile di pratica, e quindi fanno questo per dei ritiri più brevi e poi vengono a Lumbini a fare dei ritiri più lunghi. This or the going to tradition is also part of Vipassana meditation. They just have a different approach, and so if you can cope with that and accept that at least for the 10-day period, well then go for it. Quindi nei centri di Goenka sono comunque nella tradizione di Vipassana. E quindi hanno solo uno stile, un approccio diverso. Se si riesce a stare bene con questo approccio, allora può andare. Any other questions, comments? Yes, Giorgio. Sì. Secondo lei cosa sarà il futuro della meditazione da qui a qualche anno, in un mondo globalizzato dove tutto cambia velocemente, le mode crescono velocemente, vanno, vengono, c'è bisogno un po' di fruire un po' di tutto. Gli Stati Uniti sono il primo paese che pratica yoga al mondo, però fanno tanto boom boom yoga e power yoga. Allora, cosa pensa dalla sua posizione, che è una posizione privilegiata? Come pensa che evolverà la richiesta e l'offerta di metodi di meditazione, strumenti di meditazione? So what do you think is the future of the practice, meditation practice in this world with this where we have that is more and more globalized. And so where everything is going faster and faster. For example, in the U.S., there is a lot of it is the place where there is the major number of people who practices yoga, but they practice a kind of boom boom yoga or this type of yoga practice. And so from your point of view, what will be the development of the quest for practice and meditation practice, and also of the offer of meditation practice? This much can be said, the general interest in mindfulness meditation has greatly increased. And part of what has contributed to this, to no small extent, is scientific research on the effects of mindfulness and the benefits of mindfulness practice. Quello che si può dire è che sta crescendo molto l'interesse nella pratica della consapevolezza, e ciò che ha contribuito a questo è anche la ricerca scientifica che è stata fatta sugli effetti, sui benefici della pratica della consapevolezza. And so with this, there's an increased interest in mindfulness meditation retreats, I would say more and more worldwide. E quindi in seguito a questo c'è un interesse sempre maggiore nei ritiri di pratica di consapevolezza, e questo su una scala mondiale. And it is in contrast, or as an antidote to all this busyness in modern life with globalization and so on, that our mindfulness plays this role of an antidote. Namely, it helps people to go within and to refocus and refine their center. E questa pratica di consapevolezza serve proprio come un antidoto a questo mondo globalizzato che va sempre più veloce. Quindi quella pratica di consapevolezza serve alle persone proprio per rifocalizzarsi verso l'interno. And so, the various or more and more applications, modern applications of mindfulness are being discovered. Just to mention one, a recent development. The European Union consists of 28 different member states. And 28 different member states is, 28 different agendas. So it's very difficult to find compromises. Mediation through mindfulness practice is becoming increased, or there's an increased interest at the European Union's headquarters in Brussels in mindfulness practice. E ci sono sempre più campi in cui si sta applicando la pratica della consapevolezza. E giusto per darvi un esempio, nell'Unione Europea ci sono 28 stati membri e chiaramente i piani, i programmi, l'agenda, no, di ogni stato è diversa ed è difficile trovare dei compromessi tra tutti questi diversi approcci che hanno i vari stati membri. E la consapevolezza sta essendo applicata nella mediazione tra questi tra gli stati membri, quindi viene applicata anche a Bruxelles. A meditator from Austria who used to work for the Austrian Foreign Ministry was deputed to the headquarters of the European Union in Brussels, and so he worked there, and since he had a natural interest in mindfulness meditation, he then on his own organized two mindfulness events at the headquarters. There were over 100 people participants in each case. Una meditante austriaco lavora nei quartieri generali dell'Unione Europea a Bruxelles e avendo questo interesse nella pratica della consapevolezza ha organizzato due eventi lì e in entrambi c'erano più di 100 partecipanti. The inherent qualities of mindfulness are so and so wholesome, so beautiful in the end, that mindfulness will find more and more people who get interested in it, who strongly ascribe to it. That's pretty sure. Le qualità inerenti della consapevolezza sono così belle, così salutari che questo suscita che sempre più persone si inclinano e si inclineranno a questa pratica, questo è sicuro. So, the mindfulness practice helps for peace building, it helps for political decision making, mindfulness in education, mindfulness in child raising, mindfulness in the health sector. There's this mindfulness-based stress reduction, which has become extremely popular. So there's many different applications for mindfulness. And now, as Satna referred to earlier on, mindfulness and sustainability with regard to the environment. La consapevolezza serve, è utile nel peace building, nella mediazione politica, nell'educazione, nel come crescere i bambini, anche nel rispetto all'ambiente, alla salute e a questo riguardo c'è la pratica di MBSR, riduzione dello stress basata sulla consapevolezza che sta avendo molto successo. Maybe this much as an answer. Okay. Any other questions? Yes, Simon. Concerning this trend of meditation, what comes along with that is somehow observed this trend with this word of enlightenment, there's a lot of discussion on people buying books and then comparing which author is more enlightened than the other. In certain traditions, claim that they are the only ones to have to be able to recognize enlightenment. Who decides what is all this about, or who decides when there is a state of enlightenment or stream entering? La domanda riguarda questa moda che c'è oggigiorno, questo interesse, questa moda rispetto alla meditazione, in generale alla spiritualità. Quindi ci sono libri su libri che parlano dell'illuminazione, di maestri illuminati, e persone che si chiedono: ma quale maestro è più illuminato di questo? Che cosa stabilisce se uno è illuminato o no? So in the mindfulness meditation, in the tradition of the Veneravasi side of Phutna Burma, the retreatant has to progress through or go through those various insight knowledges. Each knowledge is well defined, and the experiences are well defined, and sooner or later, then. And a realization of the Dhamma takes place. If it's a clear cut experience, the retreatant himself or herself will immediately recognize it, but sometimes at first the experiences tend to be very subtle, and so if someone hasn't learned it yet to be really mindful and to pay really closest attention to tiny little details, well then one misses the main event. And then a teacher might recognize the development, and then over time there are certain experiences, fruition experiences, then suddenly will occur. And if those occur in a regular manner, then this might come as a confirmation of the first experience. But there's still other ways of checking this, and one shouldn't jump to any quick conclusion. The Venerable Sayadaw Pandita Biwamsa of Phutna Burma, before deciding for himself whether some of his students had gained the Dhamma or not, he would observe that person for 7 years to check whether that person was really observing the five precepts in a meticulous manner. No drop of wine, no drop of whatever. So there's there are ways of checking. There are ways a student himself herself can check whether the usual criteria are fulfilled or not. The Buddha himself has certainly given a discourse that highlights or outlines certain criteria, like to have unshakable faith in the Buddha, unshakable faith in the Dhamma, in the Sangha, and also in the practice. Buddha, Dhamma, and Sangha, and keeping impeccable virtue. E nella pratica della consapevolezza, così come spiegata e insegnata nella tradizione Mahasi, c'è uno sviluppo molto preciso attraverso le 16 conoscenze di insight. E quindi un meditante andrà attraverso tutte queste esperienze, e l'esperienza dell'illuminazione può accadere in un modo chiaro, e quindi uno può rendersi conto da sé dell'esperienza con chiarezza, dell'esperienza che c'è stata, oppure può anche gli eventi possono svolgersi anche in maniera molto sottile. Quindi il meditante può anche perdere l'evento, il punto principale. E, Tuttavia l'insegnante da alcune l'insegnante può rendersi conto di quello che è successo, e tutta una serie di altri elementi possono servire a conferma di che appunto il sentiero è stato raggiunto in quel caso. Sayadaw Upandita aveva questo criterio per diceva Venerabile Sayadaw che è anche comunque importante non saltare a conclusioni avventate, e ad esempio Venerabile Sayadaw Upandita aveva questo criterio nei casi per verificare se per essere sicuro che un meditante avesse raggiunto oppure no il primo stadio di illuminazione, aspettava un periodo di 7 anni, e durante quei 7 anni osservava da vicino il suo comportamento e la sua pratica, e per verificare se che avesse una condotta morale assolutamente perfetta, una fede incrollabile. Infatti ci sono tutta una serie di parametri, di criteri che possono servire per da verifica degli ottenimenti e dell'eventuale ottenimento, e questi criteri sono alcuni di questi criteri sono stati dati dal Buddha stesso, e sono ad esempio una fede incrollabile, il Buddha Dhamma Sangha, e una virtù impeccabile. The mindfulness practice is there to bring about purity. Part of purity is humility, the development of humility, so getting away from any form of pride and conceit. And to write a book on the mindfulness meditation and then splash the words on underneath the title, The Arahant, is a bit far out. Quindi la pratica, lo sviluppo della mente, lo sviluppo, la purificazione della mente, lo sviluppo della pratica spirituale porta a una purificazione della mente, e purificare la mente significa anche sviluppare umiltà, e quindi allontanarsi sempre di più dall'orgoglio e dalla presunzione. E quindi scrivere un libro sulla consapevolezza e poi piazzare in copertina la definizione l'Arahant, questo è ben lontano dall'umiltà. And sadness of with those certain kind of those people who badly want to advertise themselves, you have to be a bit careful. And so there's plenty of room for abuse there, and there's the good possibility that such a statement, the Arahant, is based on a self-evaluation. So the person himself or herself declares to be such and such, and that might or might not be correct. And so then you'll have to check very carefully what the person says, and whether that compares certain with or coincides with the text or not. And then what about that person's ethical conduct, and so on. Ci sono delle persone che utilizzano questi modi per pubblicizzarsi. E quindi bisogna essere cauti in queste situazioni, e se una persona si definisce Arahant, questo è fatto su una autovalutazione che può essere corretta oppure no. Quindi bisogna un po' valutare il caso da sé e vedere attentamente quello che questa persona dice, se coincide con i testi, e anche vedere qual è la condotta etica di questa persona. And so from a practical point of view, in Lumbini on occasion we receive emails from retreat requests, and so people who follow certain gurus on the internet will then in their retreat application immediately first, second sentence put in there, I've already attained fourth, let's say, the inside knowledge of the fast arising passing away, and certainly my absolute goal is to realize stream entry during this forthcoming retreat at your center. Oh my goodness. Ci sono delle persone che scrivono chiedendo di partecipare a un ritiro a Lumbini, e ci sono, e alcune di queste persone seguono dei guru, dei maestri spirituali, magari su internet, e si presentano subito dicendo ho già raggiunto la quarta conoscenza di insight sul rapido sorgere e cessare dei fenomeni e sono sicuro che raggiungerò il primo stadio dell'illuminazione durante il ritiro che verrò a fare lì da voi. Uh-huh. And then it doesn't end there. Sometimes out of compassion we accept. Out of compassion, we accept some of those retreat applications. But then, the next problem is there. Oftentimes, those kind of retreatants, they're really hard to teach. And also, they have certain experiences, and it's, let's say, just beginning of the practice. But such a retreatant might go back to this self-evaluation and thinking that this is already, let's say, an advanced insight knowledge, and it's so hard to get them off that concept. No, it's kind of like you're working against the wall. What we do now recently is, as soon as someone like this comes on retreat, we say a frank talk, listen. I suppose you are a follower of such and such a guru, and then you have some understanding of the insight knowledges. You place yourself in this or that certain category. During your retreat, set all insight knowledges apart and just follow the instructions. If you're ready to do this, okay, continue. Otherwise, we'll have to reconsider. E a volte per come atto di compassione accettiamo questi meditanti, e però quando arrivano ecco che subito si presenta il secondo problema, e cioè che è molto difficile riuscire ad insegnare a queste persone perché hanno magari delle prime esperienze. E sono già le prime esperienze di insight, prime esperienze. Sì. E sono già convinti che si tratti di esperienze avanzate, di insight avanzati, ed è molto difficile toglierli da questa convinzione. Quindi l'approccio che stiamo utilizzando adesso, quando ci sono questo tipo di meditanti, è di parlare subito, apertamente, in maniera molto diretta. Sono sicuro che stai seguendo questo insegnante, che va bene, hai avuto queste esperienze e sai tutte queste cose sulle conoscenze di insight, però se vieni qui metti tutto questo da parte e segui le istruzioni che ti vengono date. Se puoi fare questo va bene, se non riesci a farlo allora riconsideriamo la cosa. Recently we had such a retreatant who was really serious about certain practice, and he immediately, from the very beginning of the retreat, followed instructions to the point, and he greatly benefited from his retreat. And in 3 months, his meditation unfolded very nicely. And also, that is part. If a person manages to let go of concepts, then things will be okay. C'è ad esempio stato il caso di un meditante che era molto serio rispetto alla pratica e che ha seguito molto seriamente, molto accuratamente le istruzioni, e che in un percorso di tre mesi di pratica ha avuto un grande progresso. E quindi è possibile fare dei grandi progressi se si mettono da parte i concetti. Voilà. Now, we're approaching 10 o'clock. I still have some packing to do, let alone the cleaning. So, on this so sunny day, let us conclude this 10-day section here of the one-month retreat at BND Chileji. I would like to thank, first of all, Johnny and Sandra for the invitation to come here. It's been already many times and continues to be wonderful to be here. And I wish all of you what you've learned here, please take it with you and keep deepening your meditation practice. And hopefully we'll meet again next year, either here or in Lumbini or elsewhere. Here. Quindi ci stiamo avvicinando alle 10, è ora di concludere e ringrazio le persone qui di Piano dei Ciliegi, in primo luogo Gianni e Sandra per il loro invito qui a Piano dei Ciliegi e My gratitude also goes to Laura for translating, to Gautam for also translating during the interviews, to Domenica and Martin and Alice for preparing the meals every day. Excellent meals. Io dice la mia gratitudine va anche a Laura e Gautam per aver tradotto e a Domenica, Alice e Martin per il loro lavoro in cucina. E poi augurava a tutti voi di portare a frutto ciò che e continuare ad applicare ciò che avete imparato, acquisito durante questo ritiro. And this is it. Okay. Oh, this is,